notti bianche, giorni neri, sempre qua. La ragione con il tempo se ne va, questo tempo che rimpiango adesso che da una vita senza gioia aspetto te. Cerco la mia primavera accanto a te, l'allegria dei miei vent'anni e chiedo a te la mia calma e le tempeste adesso che da una vita senza gioia aspetto te. Io son qui, non tardare più, dove tu sia, chiunque sia, torni qui da me. Io son qui e aspetto te, non so chi sei, che metà è, ma la mia sei tu. Ogni giorno mi trasforma e vedo che la mia vita prende forma intorno a te, ossessione che diventa in fondo a me, un pittore che ti inventa e aspetto te. Dai miei tratti di esperto appari tu, un disegno troppo incerto e niente più, e nel sogno e nell'attesa sento che io trascino la mia resa e aspetto te. Io son qui, no, non tardare più, dove tu sia, chiunque sia, corri qui da me. Io son qui e aspetto te, non so chi sei, che metà, ma la mia sei tu.